gente che saluta solo con i guanti. Qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Ciao Como, sono Andrea Paolo di Allineamenti e stasera per questa buonanotte vi leggeremo un brano destinato ad un'altra notte, la notte nazionale del liceo classico. Questo brano è il vincitore del concorso di scrittura creativa ed è stato scritto da Gabriel Bianchi, alunno della prima A e del liceo classico Repetti di Carrara. Ringrazio Manuela Peverelli per aver letto assieme a me il brano. Buon ascolto. Ciao Marco, che cosa ci fai qui in biblioteca? Ehi, amice! Ciao, sto leggendo. Ti cerco da un'ora, non pensavo di trovarti qui. Mi sono messo a sfogliare dei libri un po' a caso. Guarda un po' cosa ho trovato. Vediamo. Teofrasto, De causis plantarum, ma che è? È un libro pazzesco, Alice. Tu conosci la mia passione per la botanica, la biologia e la fisiologia, non è vero? Parla della generazione delle piante, di quanto il clima influisce su di esse. E guarda che cosa dice, leggi. Ma in greco, dai, ti prego. Vabbè, dai, te lo traduco io. Allora, dopo che lì fu introdotta una grande quantità di acqua e tutta la campagna si trasformò in palude, l'aria fu più umida e la regione più calda. Ma quando tolsero l'acqua e ne impedirono il ristagno, la regione divenne più fredda e crebbero le gelate. Capisci? E guarda qui, nell'altra pagina. Una terra non coltivata è più fredda e ha l'aria più densa perché è ricca di boschi e non la penetrano i raggi del sole e né vi soffiano i venti e ha contemporaneamente acque correnti e confluenti. Quindi? Dai Alice, rifletti, quest'uomo del IV secolo a.C. aveva già intuito che la natura ha propri ritmi e quando l'uomo interviene per modificarli ne altera pericolosamente l'equilibrio. Un ambientalista antico. Sì, vabbè Alice, scherza pure, devo saperne di più. Sei matto, a che scopo? Il solito dilemma uomo-natura, troppo controverso per me. Il tuo è solo un modo per non prendere posizione. Prima o poi dovrai riflettere su questo argomento. Il mondo ha i giorni contati. Ci rifletterò, ma ora devo scappare. Domani ho un esame. Vorrei diventare medico. Scienza, progresso, ti dicono niente queste cose? Guarda, senza rispetto per la natura, ho paura che ti servirà ben poco a diventare medico. Non ci sarà più nessuno a curare. Alice uscì sorridendo dalla biblioteca. Ancora una volta Marco era partito in quarta per una delle sue missioni salva qualcosa. Si incamminò, girò l'angolo e si trovò di fronte un uomo che a passo svelto lasciava il vicolo. Si scontrarono. L'uomo, distinto e con una folta barba, cadde a terra. Prontamente si rialzò e senza dire una parola si allontanò. Alice fece per tirarsi su quando si accorse che l'uomo aveva perduto qualcosa. Era un biglietto d'ingresso per l'orto botanico cittadino. Se si fosse affrettata, forse avrebbe potuto raggiungere lo sconosciuto. Non indugiò e, arrivata al cancello dell'orto botanico, entrò timorosamente. Subito fu pervasa dalla tiepida umidità emanata dalla folta vegetazione. Vialetti di sassi si dipanavano tra piante e cespugli. Panchine in ferro battuto invogliavano la fossa. E poi i grandi alberi. Ginkgo biloba, 1787. Giubea Chilensis, 1891. La natura ci sopravvive, pensò. Forse aveva ragione quel Teofrasto. Continuando a camminare, Alice arrivò nei pressi di una serra chiusa da una porta vecchia. All'interno, piante medicinali e velenose. Alice, sopraffatta dalla curiosità, entrò cautamente. Atropa belladonna, papaver somniferum, acolitum. Un grillo le corse lungo la schiena, fece per andarsene quando la porta si chiuse alle sue spalle. Tutto si fece scuro, la nausea la pervase e svenne. Quando Alice riaprì gli occhi, si ritrovò immersa nel fango fino al collo, respirava a fatica e aveva un forte mal di testa. Presto, correte! Ho trovato una donna ancora viva! Qualcuno la liberò e la adagiò su un telo ruvido. La ragazza, chiedendosi come fosse finita lì, si guardò intorno e vide un'immensa colata di fango, scivolata da una collina di fronte a lei. Teofrasto, non era possibile prevedere una tal tragedia. Alice si voltò e vide due uomini vestiti con una tunica bianca discutere animosamente. Caro Alexios, la natura ha scopi intrinsechi, a noi spesso invisibili, ma fondamentali per la vita. Il bosco, sacrificato per il suo legname, avrebbe salvato le case ai piedi della collina. Lo stesso Platone ha descritto come la deforestazione abbia modificato nella sua terra il paesaggio, privandolo di fertili pianure e protezioni durante le alluvioni. Maestro, c'è chi sostiene al liceo che la natura sia una fonte rigenerabile e che l'uomo debba attingere a essa per le sue esigenze. L'uso della ragione ci ha liberati dalla soggezione della forza della natura. Pensare, non distruggere. Quanto tempo passerà perché la natura ci si rivolti contro? Secoli, ma accadrà. Alice, confusa, guarda i due uomini allontanarsi tra distruzione e morte. Immagini di una tragedia destinata a ripetersi nei secoli. La vista le si appannò e perse nuovamente i sensi. Signorina, sta bene? È sbucata all'improvviso nel vicolo, non ho potuto evitarla. Alice aprì gli occhi. Un distinto signore con una folta barba la scrutava preoccupato. Quel viso le parve familiare. Sì, grazie. Arrivederci. Arrivederci, spero abbia riflettuto. Alice si girò. Solo allora notò la tunica bianca del saggio Teofrasto che scompariva nel nulla. Avrei voluto nascere da un'altra parte per vedere il sole o anche solo Marte. Avrei dovuto credere a quello che mi hai detto, ma ero troppo stupido e incosciente a quel tempo. Avrei voluto chiederti ancora mille cose, ma tu non ci sei più, tieniti le tue scuse. La vita è questa qua, non c'è nient'altro che volevo dirti, ma ora ti voglio bene. La vita è tutta qua, ci stai in un bicchiere, mi manca anche papà. In queste notti nere, in queste notti nere, avrei voluto nascere sopra una montagna per parlare con la neve anche se non parla. Avrei voluto vedere il mondo intero, tanto dopo questa pioggia torna anche il sereno. La vita è questa qua, non c'è nient'altro che volevo dirti, ma ora ti voglio bene. La vita è tutta qua, ci sta in un bicchiere, mi manca anche papà in queste notti nere. E non dirmi che non resta più niente, se poi guardo le stelle dimentico tutto. E non dirmi che non resta più niente, se poi guardo le stelle. La vita è questa qua, non c'è nient'altro che volevo dirti, ma ora ti voglio bene. La vita è tutta qua, ci sta in un bicchiere, mi manca anche papà in queste notti nere. La vita è questa qua, non c'è nient'altro che volevo dirti, ma ora ti voglio bene. La vita è tutta qua, ci sta in un bicchiere, mi manca anche papà in queste notti nere. In queste notti nere, in queste notti nere, in queste notti nere.